Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Siamo arrivati alla fine con un leggero anticipo, scusateci per una volta, momento dei ringraziamenti di rito, per prima cosa naturalmente a Walter che ci ha prodigato ancora una volta la sua esperienza dalla console e poi soprattutto a voi che avete avuto la bontà di ascoltarci. Ci sentiamo, un solenne appuntamento, domenica prossima, deve essere il 30 gennaio mi sembra, alla stessa ora. Salve a tutti. Thank you.